Matteo, capitolo 26. Ed avvenne che quando Gesù ebbe finiti tutti questi ragionamenti, disse ai suoi discepoli: «Voi sapete che fra 2 giorni è la Pasqua, e il figliuolo dell'uomo sarà consegnato per essere crocifisso». Allora i capi sacerdoti e gli anziani del popolo si radunarono nella corte del sommo sacerdote detto Caiafa, e deliberarono nel loro consiglio di pigliar Gesù con inganno e di farlo morire. Ma dicevano: «Non durante la festa, perché non accada un tumulto nel popolo». Ora, essendo Gesù in Betania, in casa di Simone il lebbroso, venne a lui una donna che aveva un alabastro d'olio odorifero di gran prezzo, e lo versò sul capo di lui che stava a tavola. Veduto ciò, i discepoli furono indignati e dissero: «A che questa perdita? Poiché quest'olio si sarebbe potuto vendere caro e il denaro darlo ai poveri». Ma Gesù, accortosene, disse loro: «Perché date noia a questa donna? Ella ha fatto un'azione buona verso di me, perché i poveri li avete sempre con voi, ma me non mi avete sempre. Poiché costei versando quest'olio sul mio corpo, l'ha fatto in vista della mia sepoltura. In verità vi dico che per tutto il mondo, dovunque sarà predicato questo Vangelo, anche quello che costei ha fatto sarà raccontato in memoria di lei». Allora uno dei 12, detto Giuda Iscariot, andò dai capi sacerdoti e disse loro: «Che mi volete dare? E io ve lo consegnerò». Ed essi gli contarono 30 sicli d'argento, e da quell'ora cercava il momento opportuno di tradirlo. Or, il primo giorno degli azimi, i discepoli s'accostarono a Gesù e gli dissero: «Dove vuoi che ti prepariamo da mangiare la Pasqua?» Ed egli disse: «Andate in città dal tale e ditegli: il maestro dice: il mio tempo è vicino, farò la Pasqua da te con i miei discepoli». E i discepoli fecero come Gesù aveva loro ordinato e prepararono la Pasqua. E quando fu sera si mise a tavola con 12 discepoli, e mentre mangiavano disse: «In verità io vi dico, uno di voi mi tradirà». Ed essi, grandemente attristati, cominciarono a dirgli ad uno: «Sono io quello, Signore?» Ma egli rispondendo disse: «Colui che ha messo con me la mano nel piatto, quello mi tradirà. Certo, il figliuolo dell'uomo se ne va, come è scritto di lui, ma guai a quell'uomo per cui il figlio dell'uomo è tradito. Meglio sarebbe per cotest'uomo se non fosse mai nato». E Giuda, che lo tradiva, prese a dire: «Sono io quello, maestro?» E Gesù a lui: «L'hai detto». Or, mentre mangiavano, Gesù prese del pane e, fatta la benedizione, lo ruppe, e dandolo ai suoi discepoli disse: «Prendete, mangiate, questo è il mio corpo». Poi, preso un calice e rese grazie, e lo diede loro dicendo: «Bevetene tutti, poiché questo è il mio sangue, il sangue del patto, il quale è sparso per molti per la remissione dei peccati. Io vi dico che d'ora in poi non berrò più di questo frutto della vigna, fino al giorno che lo berrò nuovo con voi, nel regno del Padre mio». E dopo che ebbero cantato l'inno, uscirono per andare al Monte degli Ulivi. Allora Gesù disse loro: «Questa notte voi tutti avrete in me un'occasione di caduta, poiché è scritto: io percoterò il pastore, e le pecore della greggia saranno disperse. Ma dopo che sarò risuscitato, vi precederò in Galilea». Ma Pietro rispondendogli disse: «Quand'anche tu fossi per tutti un'occasione di caduta, non lo sarai mai per me». Gesù gli disse: «In verità ti dico che questa stessa notte, prima che il gallo canti, tu mi rinnegherai 3 volte. E Pietro a lui: «Quand'anche mi convenisse morir teco, non però ti rinnegherò». E lo stesso dissero pure tutti i discepoli. Allora Gesù venne con loro in un podere detto Getsemani e disse ai discepoli, «Sedete qui finché io sia andato là ed abbia orato». E presi seco, Pietro e i due figlioli di Zebedeo cominciò ad essere contristato ed angosciato. Allora disse loro, «L'anima mia è oppressa da tristezza mortale. Rimanete qui e vegliate meco». E andato un poco innanzi, si gettò con la faccia a terra, pregando e dicendo, «Padre mio, se è possibile passi oltre da me questo calice, ma pure non come voglio io, ma come tu vuoi». Poi venne ai discepoli e li trovò che dormivano, e disse a Pietro, «Così non siete stati capaci di vegliar meco un'ora sola? Vegliate ed orate, affinché non cadiate in tentazione. Ben è lo spirito pronto, ma la carne è debole». Di nuovo, per la seconda volta, andò e pregò dicendo, «Padre mio, se non è possibile che questo calice passi oltre da me senza che io lo beva, sia fatta la tua volontà». E tornato li trovò che dormivano, perché gli occhi loro erano aggravati. E lasciateli andò di nuovo e pregò per la terza volta, ripetendo le medesime parole. Poi venne ai discepoli e disse loro, «Dormite pure ormai e riposatevi. Ecco l'ora è giunta, e il figliuolo dell'uomo è dato nelle mani dei peccatori. Levatevi, andiamo, ecco colui che mi tradisce è vicino». E mentre parlavano ancora, ecco arrivar Giuda, uno dei dodici, con lui una gran turba con spade e bastoni da parte dei capi sacerdoti e degli anziani del popolo. Or colui che lo tradiva aveva dato loro un segnale dicendo, «Quello che bacerò è lui, pigliatelo». E in quell'istante, accostatosi a Gesù, gli disse, «Ti saluto, maestro», e gli dette un lungo bacio. Ma Gesù gli disse, «Amico, a far che sei tu qui?» Allora, accostatisi, gli misero le mani addosso e lo presero. Ed ecco un di coloro che eran con lui, stesa la mano alla spada, la sfoderò, e percosso il servitore del sommo sacerdote gli spiccò l'orecchio. Allora Gesù gli disse, «Riponi la tua spada al suo posto, perché tutti quelli che prendono la spada periscono per la spada. Credi tu forse che io non potrei pregare il Padre mio che mi manderebbe in quest'istante più di 12 legioni di angeli? E come dunque si adempirebbero le scritture, secondo le quali bisogna che così avvenga?» In quel punto Gesù disse alle turbe, «Voi siete usciti con spade e bastoni come contro a un ladrone per pigliarmi. Ogni giorno sedevo nel tempio ad insegnare, e voi non m'avete preso. Ma tutto questo è avvenuto affinché si adempissero le scritture dei profeti». Allora tutti i discepoli, lasciatolo, se ne fuggirono. Or quelli che avevano preso Gesù lo menarono a Caiafa, sommo sacerdote, presso il quale erano radunati gli scribi e gli anziani. E Pietro lo seguiva da lontano, finché giunsero alla corte del sommo sacerdote, ed entrato dentro si pose a sedere con le guardie per vedere la fine. Ora i capi sacerdoti e tutto il sinedrio cercavano qualche falsa testimonianza contro a Gesù per farlo morire, e non te ne trovavano alcuna, benché si fossero fatti avanti molti falsi testimoni. Finalmente se ne fecero avanti due che dissero, «Costui ha detto, io posso disfare il tempio di Dio e riedificarlo in 3 giorni». E il sommo sacerdote, levatosi in piedi, gli disse, «Non rispondi tu nulla? Che testimoniano costoro contro a te?» Ma Gesù taceva. E il sommo sacerdote gli disse, «Ti scongiuro per il Dio vivente a dirci se tu sei il Cristo, il figliuolo di Dio». Gesù gli rispose, «Tu l'hai detto. Anzi vi dico che da ora innanzi vedrete il figliuolo dell'uomo sedere alla destra della potenza e venire sulle nuvole del cielo». Allora il sommo sacerdote si stracciò le vesti dicendo, «Egli ha bestemmiato. Che bisogno abbiamo più di testimoni? Ecco, ora avete udita la sua bestemmia. Che ve ne pare?» ed essi rispondendo dissero: «È reo di morte». Allora gli sputarono in viso e gli dettero dei pugni, ed altri lo schiaffeggiarono, dicendo: «O Cristo profeta, indovinaci, chi t'ha percosso?» Pietro, intanto, stava seduto fuori nella corte, e una serva gli si accostò dicendo: «Anche tu eri con Gesù il Galileo». Ma egli lo negò davanti a tutti dicendo: «Non so quel che tu dica». E come fu uscito fuori nell'antiporto, un'altra lo vide e disse a coloro che erano quivi: «Anche costui era con Gesù Nazareno». Ed egli da capo lo negò giurando: «Non conosco quell'uomo». Di lì a poco gli astanti, accostatisi, dissero a Pietro: «Per certo tu pure sei di quelli, perché anche la tua parlata ti dà a conoscere». Allora egli cominciò ad imprecare e ad ingiuriare: «Non conosco quell'uomo». E in quell'istante il gallo cantò. Pietro si ricordò della parola di Gesù che gli aveva detto: «Prima che il gallo canti, tu mi rinnegherai tre volte». E uscito fuori, pianse amaramente.